Ad alta voce. Marco Foschi legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Traduzione di Enrico Cicogna. Anni dopo, nel suo letto di agonia, Aureliano II si sarebbe ricordato del piovigginoso pomeriggio di giugno in cui entrò nella stanza da letto per conoscere il suo primo figlio. Benché fosse languido e piagnucolone, senza niente di un buendia, lui non ci pensò su due volte a dargli il nome. «Si chiamerà José Arcadio», disse. Fernanda del Carpio, la bella donna con la quale si era sposato l'anno prima, fu d'accordo. Invece, Ursula non poté celare un vago senso di inquietudine. Nella lunga storia della famiglia, la tenace ripetizione dei nomi le aveva permesso di trarre conclusioni che le sembravano decisive. Mentre gli Aureliani erano riservati ma con discernimento lucido, i José Arcadio erano impulsivi e intraprendenti, ma erano marcati da un segno tragico. Gli unici casi di impossibile classificazione erano quelli di José Arcadio II e Aureliano II. Erano così somiglianti e turbolenti durante la loro infanzia che nemmeno la stessa Santa Sofia della Piedad poteva distinguerli. Il giorno del battesimo, Amaranta mise loro dei bracciali coi rispettivi nomi e le vestì con roba di colori diversi marcata con le iniziali di ognuno. Ma quando cominciarono a frequentare la scuola, decisero di cambiarsi la roba e i bracciali e di chiamarsi loro stessi l'uno col nome dell'altro. Il maestro Melchiorre Scalona, abituato a riconoscere José Arcadio II dalla camicia verde, verse le staffe quando scoprì che questi aveva il bracciale di Aureliano II e che l'altro diceva di chiamarsi comunque Aureliano II, nonostante avesse la camicia bianca e il bracciale col nome di José Arcadio II. Da allora non si seppe più chi fossero con certezza. Anche quando crebbero e la vita li rese differenti, Ursula continuava a chiedersi se loro stessi non avessero per caso commesso un errore in un momento qualsiasi del loro intricato gioco di confusioni e non fossero rimasti scambiati per sempre. Tuttavia, la differenza decisiva si rivelò in piena guerra quando José Arcadio II chiese al colonnello Gerineldo Márquez di portarlo a vedere le fucilazioni. Contro il parere di Ursula, i suoi desideri furono soddisfatti. Aureliano II, invece, tremava al solo pensiero di assistere a una esecuzione. Preferiva la casa. A 12 anni chiese a Ursula che cosa c'era nella stanza chiusa. «Carte», gli rispose lei. «Sono i libri di Melchiades e le cose strane che scriveva nei suoi ultimi anni». La risposta, invece di tranquillizzarlo, aumentò la sua curiosità. Insistette tanto. Promise con tanto calore di non sciupare le cose che Ursula gli diede le chiavi. Nessuno era più entrato nella stanza da quando avevano portato fuori il cadavere di Melchiades e messo il lucchetto le cui parti si erano saldate con la ruggine. Ma quando Aureliano II aprì le finestre, entrò una luce familiare che sembrava avvezza a illuminare la stanza tutti i giorni. E non c'era la minima traccia di polvere o di ragnatele, ma al contrario, tutto era scopato e pulito. Più scopato e più pulito del giorno dei funerali. E l'inchiostro non si era seccato nel calamaio, né l'ossido aveva alterato la lucidità dei metalli, né si era estinta la brace dell'Atanor dove José Arcadio Buendía aveva vaporizzato il mercurio. Negli scaffali c'erano i libri rilegati in una materia in carta pecorita e pallida come la pelle umana conciata, e c'erano i manoscritti intatti. Nonostante il chiuso di molti anni, l'aria sembrava più pura che nel resto della casa. Tutto era così fresco che parecchie settimane dopo, quando Ursula entrò nella stanza con un secchio d'acqua e una scopa per lavare il pavimento, non ebbe niente da fare. Aureliano II era assorto nella lettura di un libro. Quando finì il libro, molte storie del quale erano incompiute perché mancavano le pagine, Aureliano II si dedicò al compito di decifrare i manoscritti. Fu impossibile. Le lettere sembravano roba messa ad asciugare su un filo di ferro e somigliavano più alla scrittura musicale che a quella letteraria. In un pomeriggio ardente, mentre scrutava i manoscritti, sentì di non essere solo nella stanza. Contro il riverbero della finestra, seduto con le mani sulle ginocchia, c'era Melchiades. Non aveva più di 40 anni. Portava lo stesso panciotto anacronistico e il cappello ad ali di corvo. E dalle sue tempie pallide gocciolava l'unto dei capelli sciolto dal caldo, come lo avevano visto Aureliano e José Arcadio quando erano bambini. Aureliano II lo riconobbe subito, perché quel ricordo ereditario si era trasmesso di generazione in generazione ed era arrivato a lui dalla memoria di suo nonno. «Salve», disse Aureliano II. «Salve, giovane», disse Melchiades. Da quel momento, per diversi anni, si videro quasi tutti i pomeriggi. Melchiades gli parlava del mondo, cercava di infondergli la sua vecchia saggezza, ma si rifiutò di tradurre i manoscritti. «Nessuno deve conoscere il loro significato finché non saranno passati 100 anni», spiegò. Aureliano II conservò per sempre il segreto di quei colloqui. Una volta sentì crollare il suo mondo privato perché Ursula entrò nel momento in cui Melchiades era nella stanza, ma lei non lo vide. «Con chi stai parlando?» gli chiese. «Con nessuno», disse Aureliano II. «Così era il tuo bisnonno», disse Ursula. «Anche lui parlava da solo». Nel frattempo, José Arcadio II aveva soddisfatto la voglia di assistere a una fucilazione. Per il resto della sua vita si sarebbe ricordato della fiammata livida, dei 6 spari simultanei, e l'eco dello scoppio che si era frantumato nei boschi e il sorriso triste e lo sguardo perplesso del fucilato che era rimasto eretto mentre la camicia gli si inzuppava di sangue e continuava a sorridere anche quando lo slegarono dal palo e lo misero in una cassa piena di calce. «È vivo», pensò il ragazzo. «Lo seppelliscono vivo». Si impressionò tanto che da quel momento detestò le pratiche militari e la guerra. Non tanto per le esecuzioni, quanto per la spaventosa abitudine di sotterrare vivi i fucilati. Nessuno seppe allora quando avesse cominciato a suonare le campane in chiesa e ad aiutare padre Antonio e Isabella a dir messa e ad allevare galli da combattimento nel patio della casa parrocchiale. Ben presto si seppe che il padre Antonio Isabel lo stava preparando per la prima comunione. Gli insegnava il catechismo mentre rasava il collo dei galli. Gli spiegava con semplici esempi, mentre mettevano nei loro nidi le galline da cova, come era venuto in mente a Dio nel secondo giorno della creazione che i pulcini si formassero dentro l'uovo. Fin da allora manifestava il parroco i primi sintomi del delirio senile che gli fece dire, qualche anno più tardi, che nella ribellione contro Dio probabilmente aveva vinto il diavolo e che era il diavolo che stava seduto sul trono celeste, anche se per intrappolare gli incauti non rivelava la sua vera identità. Ingagliardito dalla intrepidità del suo precettore, José Arcadio II riuscì in pochi mesi a essere altrettanto dotto in marchingegni teologici per confondere il demonio quanto abile nei trucchi dell'allevamento dei galli. Amaranta gli fece un vestito di lino col colletto e cravatta, gli comprò un paio di scarpe bianche e ricamò il suo nome in lettere dorate sul nastro del cero. 2 notti prima della comunione, padre Antonio Isabel si chiuse con lui nella sacrestia per confessarlo, con l'aiuto di un dizionario di peccati. Fu un elenco così lungo che il vecchio parroco, abituato ad andare a letto alle 6, si addormentò nella poltrona prima di finire. L'interrogatorio fu per José Arcadio II una rivelazione. Non lo sorprese che il padre gli chiedesse se aveva fatto cose brutte con donne, e rispose onestamente di no. ma si sconcertò quando gli chiese se le aveva fatte con animali. Il primo venerdì di maggio si comunicò torturato dalla curiosità. Più tardi rivolse la domanda a Petronio, il sacrestano malaticcio che viveva nel campanile e che, a quanto dicevano, si alimentava di pipistrelli, e Petronio gli rispose: «Ci sono dei cristiani corrotti che fanno le loro cose con le asine». José Arcadio II continuò a dimostrare tanta curiosità, chiese tante spiegazioni che Petronio perse la pazienza. «Io vado tutti i martedì notte», confessò. «Se prometti di non dirlo a nessuno, il prossimo martedì ti ci porto». Il martedì seguente, in effetti, Petronio scese dal campanile con uno sgabello di legno che fino a quel momento nessuno aveva saputo a cosa servisse e portò José Arcadio II in un orto vicino. Il ragazzo si appassionò tanto a quelle incursioni notturne che trascorse parecchio tempo prima che lo si vedesse nella bottega di Catarino. Si fece uomo di galli. «Portati quegli animali da un'altra parte», gli ordinò Ursula la prima volta che lo vide entrare con i suoi eleganti animali da combattimento. «I galli hanno già portato abbastanza amarezza in questa casa senza che venga tu a portarne delle altre». José Arcadio II se li portò via senza discutere, ma continuò ad allevarli da Pilar Ternera, sua nonna, che mise a sua disposizione quanto aveva bisogno pur di tenerselo in casa. Ben presto dimostrò nell'arena dei galli la sapienza che gli aveva infuso padre Antonio Isabel e dispose di denaro a sufficienza non solo per arricchire il suo allevamento, ma per procurarsi soddisfazioni da uomo. Ursula lo paragonava in quel tempo a suo fratello e non poteva capire come i due gemelli che sembravano una sola persona durante l'infanzia avevano finito per essere così diversi. La perplessità non le durò a lungo, perché assai presto Aureliano II cominciò a dare mostra di poltroneria e di dissipatezza. Fin quando rimase chiuso nella stanza di Melchiades, fu un uomo introverso, come lo era stato il colonnello Aureliano Buendía da giovane. Una donna giovane che andava vendendo numeri per la riffa di una fisarmonica lo salutò con molta familiarità. Aureliano II non si meravigliò perché capitava frequentemente che lo scambiassero per suo fratello, ma non chiarì l'equivoco nemmeno quando la ragazza cercò di intenerirgli il cuore con piagnucoli e finì per portarlo nella sua stanza. Per quasi 2 mesi divise la donna con suo fratello. Lo sorvegliava, gli mandava all'aria i progetti. E quando era sicuro che José Arcadio II non sarebbe andato quella notte dall'amante comune, scappava a dormire con lei. Una mattina scoprì di avere una malattia. 2 giorni dopo trovò suo fratello aggrappato a una trave del bagno, inzuppato di sudore, grondante lacrime cocenti, e allora comprese. Suo fratello gli confessò che la donna lo aveva ripudiato, accusandolo di averla contagiata con quella che lei chiamava una malattia della malavita. Gli raccontò anche come cercava di curarlo Pilar Ternera. Aureliano II si sottopose di nascosto ai brucianti lavacri di permanganato e alle acque diuretiche e ambedue guarirono separatamente dopo 3 mesi di sofferenze segrete. José Arcadio II non tornò mai più dalla donna. Aureliano II impetrò il suo perdono e se la tenne fino alla morte. Si chiamava Petra Cotes. Era arrivata a Macondo in piena guerra, con un marito occasionale che viveva delle riffe, e quando l'uomo morì, lei continuò il mestiere. Era una mulatta pulita e giovane, con occhi gialli e a mandorla, che davano al suo volto la ferocia di una pantera, ma aveva un cuore generoso e una magnifica vocazione per l'amore. Fino al termine delle guerre, Petra Cotes continuò a sostenersi col prodotto delle sue riffe. e Aureliano II si arrangiava saccheggiando di tanto in tanto i salvadanai di Ursula. Formavano una coppia frivola, senza altre preoccupazioni che quella di fare all'amore tutte le notti, anche nelle date proibite, e sollazzarsi nel letto fino allo spuntare del giorno. «Quella donna è stata la tua perdizione!» gridava Ursula al bisnipote quando lo vedeva entrare in casa come un sonnambulo. Un giorno Aureliano II aprì la porta e vide il patio pavimentato di conigli, azzurri nello splendore dell'alba. Petra Kotes, ridendo a crepapelle, non resistette alla tentazione di fargli uno scherzo. «Questi sono nati stanotte», disse. «Che spavento», disse lui. «Perché non provi con le vacche?» Pochi giorni dopo, cercando di sgomberare il patio, Petra Kotes cambiò i conigli con una vacca, che 2 mesi più tardi partorì dei trigemini. Così cominciarono le cose. Dal giorno alla notte, Aureliano II fu padrone di terre e di mandrie, e non gli rimaneva tempo che per allargare scuderie e porcili straripanti. Era una prosperità delirante di cui lui stesso era il primo a ridere, e non poteva fare a meno di assumere atteggiamenti stravaganti per scaricare il suo buon umore. «Scostatevi, vacche, che la vita è breve!» gridava. Macondo naufragava in una prosperità da miracolo. Le case di argilla e di canna selvatica dei fondatori erano state sostituite con costruzioni di mattoni, con persiane di legno e pavimenti di cemento che rendevano più sopportabile il caldo soffocante delle 2 del pomeriggio. Dell'antico villaggio di José Arcadio Buendía rimanevano a quei tempi soltanto i mandorli polverosi, destinati a resistere alle circostanze più ardue, e il fiume, dalle acque diafane, le cui pietre preistoriche furono polverizzate dalle mazze impazzite di José Arcadio II quando si ostinò a voler spianare il letto per creare un servizio di navigazione. Fu un sogno delirante, paragonabile appena a quelli del suo bisnonno, perché il letto pietroso e i numerosi ostacoli della corrente impedivano il transito da Macondo fino al mare. Ma José Arcadio II, in un imprevisto accesso di temerità, si incaparbì nel progetto. Fino a quel momento non aveva dato alcuna mostra di fantasia. Tranne la sua precaria avventura con Petra Kotes, non lo si era mai visto con donne. Ursula lo considerava l'esemplare più smorto che avesse prodotto la famiglia in tutta la sua storia, incapace di farsi valere nemmeno come attaccabrighe di arene di galli. Il colonnello Aureliano Buendía gli raccontò la storia del galeone spagnolo incagliato a 12 chilometri dal mare, il cui scafo carbonizzato aveva visto lui stesso durante la guerra. Il racconto, che a tanta gente per tanto tempo era sembrato fantastico, fu una rivelazione per José Arcadio II. Vendette i suoi galli al miglior offerente, reclutò uomini e comprò utensili e si impuntò nella iperbolica impresa di rompere pietre, scavare canali, sbarazzare scogli e perfino livellare cataratte. «Questo lo so ormai a memoria», gridava Ursula. «È come se il tempo continuasse a girarci in giro e fossimo tornati al principio». Quando ritenne che il fiume fosse navigabile, José Arcadio II fece a suo fratello un rapporto dettagliato dei suoi piani e questi gli diede il denaro di cui aveva bisogno per la sua impresa. Sparì per parecchio tempo. Correva già voce che il suo progetto di comprare un battello non fosse altro che un pretesto per darsela a gambe coi soldi di suo fratello, quando si sparse la notizia che una strana nave si stava avvicinando al villaggio. Sulla prua, con una luce di soddisfazione nello sguardo, José Arcadio II dirigeva la dispendiosa manovra. Assieme a lui arrivava un gruppo di splendide matrone che si proteggevano dal sole ardente con vistosi ombrellini e tenevano sulle spalle bellissimi fazzolettoni di seta e unguenti colorati sulla faccia e fiori naturali tra i capelli e serpenti d'oro sulle braccia e diamanti nei denti. La zattera di tronchi fu l'unico veicolo che José Arcadio II riuscì a far rimontare fino a Macondo, e solo per una volta, ma non riconobbe mai il fallimento della sua impresa. bensì proclamò la sua prodezza come una vittoria della volontà. Rese conti scrupolosi a suo fratello e ben presto tornò a immergersi nel trantan dei Galli. L'unica cosa che rimase di quella sventurata iniziativa fu il soffio di rinnovamento che portarono le matrone francesi, le cui arti magnifiche cambiarono i metodi tradizionali dell'amore e il cui senso del benessere sociale sgominò l'antiquata bottega di Catarino e trasformò la strada in un bazar di lanterne giapponesi e organetti nostalgici. Furono loro le promotrici del carnevale sanguinoso che per 3 giorni precipitò Macondo nel delirio e la cui unica conseguenza durevole fu di aver dato ad Aureliano II la possibilità di conoscere Fernanda del Carpio. Remedios la Bella fu proclamata regina. Ursula, che tremava di fronte alla bellezza inquietante della bisnipote, non poté impedire l'elezione. Fino allora era riuscita a non farla uscire in strada, tranne che per andare a messa con Amaranta, ma la costringeva a coprirsi la faccia con uno scialle nero. Gli uomini meno devoti, quelli che si travestivano da preti per celebrare messe sacrileghe nella bottega di Catarino, frequentavano la chiesa con l'unico proposito di vedere anche solo per un attimo il viso di Remedios la Bella, della cui avvenenza leggendaria si parlava con un fervore rimescolante in tutta la palude. Passò molto tempo prima che ci riuscissero, e meglio sarebbe stato per loro che l'occasione non fosse mai giunta, perché la maggior parte degli indiscreti non poté mai più recuperare la tranquillità del sonno. L'uomo che la rese possibile, un forestiero, perse per sempre la pace, si intricò nelle sabbie mobili dell'abiezione e della miseria e anni dopo fu fatto a pezzi da un treno notturno quando si addormentò sui binari. Dal momento in cui lo si vide in chiesa, con un vestito di velluto verde e un panciotto ricamato, nessuno mise in dubbio che veniva da molto lontano, forse da una remota città dell'estero, richiamato dal fascino magico di Remedios la Bella. Era così bello, così gagliardo e sicuro di sé, con una prestanza così ben esibita, che Pietro Crespi al suo lato sarebbe sembrato un Settimino. E molte donne mormoravano tra sorrisi e di dispetto che lo scialle sarebbe stato meglio a lui. Non bazzicò con nessuno a Macondo. Compariva allo spuntare della domenica come un principe di fiaba, su un cavallo con staffe d'argento e gualdrappe di velluto, e lasciava il villaggio dopo la messa. La sesta domenica il cavaliere apparve con una rosa gialla in mano. Ascoltò la messa in piedi, come faceva sempre, e alla fine intralciò il passo a Remedios la Bella e le offrì la rosa solitaria. Lei la ricevette con un gesto naturale, come se fosse stata preparata a ricevere quell'omaggio, e allora scoprì il volto per un istante e lo ringraziò con un sorriso. Non fece altro, ma non soltanto per il cavaliere, bensì per tutti gli uomini che ebbero lo sfortunato privilegio di viverlo, quello fu un istante eterno. Il cavaliere faceva venire da allora la banda di musica vicino alla finestra di Remedios la Bella e spesso fino allo spuntare del giorno. Aureliano II fu l'unico che provò per lui una compassione cordiale e cercò di piegare la sua perseveranza. «Non perda più tempo», gli disse una notte. «Le donne di questa casa sono peggio delle mule». Gli offrì la sua amicizia, lo invitò a fare il bagno nello champagne, cercò di fargli capire che le femmine della sua famiglia avevano viscere di selce, ma non riuscì a vulnerare la sua ostinazione. Nessuno lo fece desistere, tranne il suo stesso e lamentevole stato di demoralizzazione. Da prestante e impeccabile che era, si trasformò in abietto e straccione. Si fece uomo litigioso, attaccabrighe da osteria. E il giorno lo sorprese a rivoltolarsi nelle sue stesse secrezioni nella bottega di Catarino. La cosa più triste del suo dramma era che Remedios la Bella non gli badava nemmeno quando si presentava in chiesa vestito da principe. Accettò la rosa gialla senza la minima malizia, ma divertita piuttosto per la stravaganza del gesto, e si alzò lo scialle non per mostrarsi, ma per guardarlo meglio in faccia. In realtà, Remedios la Bella non era un essere di questo mondo. Pur molto avanti nella pubertà, Santa Sofia della Piedad doveva ancora farle il bagno e vestirla. Compì i 20 anni senza sapere né leggere né scrivere, né servirsi delle posate a tavola, e girava nuda per la casa, perché la sua natura si opponeva a qualsiasi tipo di convenzionalismo. Quando il giovane comandante della guardia le dichiarò il suo amore, lo respinse semplicemente perché fu sorpresa dalla sua frivolezza. «Pensa un po' com'è stupido», disse ad Amaranta. «Dice che sta morendo per me, come se io fossi una colica del miserere». Quando in effetti lo trovarono morto vicino alla sua finestra, Remedios la Bella confermò la sua impressione iniziale. «Vedete», commentò, «era proprio un sempliciotto». La notizia che Remedios Buendía sarebbe stata la sovrana della festa varcò in poche ore i confini della palude, giunse fino a lontani territori dove si ignorava l'immenso prestigio della sua bellezza e suscitò l'inquietudine di coloro che consideravano ancora il suo cognome come un simbolo della sovversione. Era una inquietudine infondata. Se qualcuno si doveva ritenere inoffensivo in quell'epoca, era l'invecchiato e disilluso colonnello Aureliano Buendía, che a poco aveva perduto ogni contatto con la realtà della nazione. Rinchiuso nel suo laboratorio, il suo unico rapporto col resto del mondo era il commercio dei pesciolini d'oro. Uno dei vecchi soldati che avevano sorvegliato la sua casa nei primi giorni della pace andava a venderli nei villaggi della palude e tornava carico di monete e di notizie, che il governo conservatore, diceva, con l'appoggio dei liberali, stava riformando il calendario in modo che ogni presidente rimanesse 100 anni al potere. Qualcuno si azzardò una volta a turbare la sua solitudine. «Come sta, colonnello?» gli disse passando. «Così», rispose. «Aspetto che passi il mio funerale». Di modo che l'inquietudine causata dalla riapparizione pubblica del suo cognome a proposito del regno di Remedios la Bella mancava di fondamento reale. Molti, ciò malgrado, non lo credettero. Ignara della tragedia che la minacciava, la folla invase la piazza pubblica in una turbolenta manifestazione di allegria. Il carnevale aveva raggiunto il suo più alto grado di pazzia. Aureliano II aveva realizzato finalmente il suo sogno di travestirsi da tigre e girava felice tra la ressa smisurata quando apparve lungo la strada della palude una numerosa mascherata che portava su una lettiga dorata la donna più affascinante che avrebbe potuto concepire la fantasia. Per un momento i pacifici abitanti di Macondo si tolsero le maschere per vedere meglio l'abbagliante creatura con corona di smeraldi e cappa di ermellino che sembrava investita di un'autorità legittima e non di una sovranità di lustrini e di carta crespata. Non mancò chi avesse sufficiente chiaroveggenza da sospettare che si trattava di una provocazione. Ma Aureliano II superò immediatamente la perplessità. Dichiarò ospiti d'onore gli ultimi arrivati e collocò salomonicamente Remedios la Bella e la regina intrusa sullo stesso piedistallo. Improvvisamente, nel parossismo della festa, qualcuno ruppe il delicato equilibrio. «Viva il Partito Liberale!» gridò. «Viva il colonnello Aureliano Buendía!» Le scariche di fucileria soffocarono i bagliori dei fuochi artificiali e gli urli di terrore soffocarono la musica e il giubilo fu annichilito dal panico. Molti anni dopo si sarebbe continuata ad affermare che la guardia reale della sovrana intrusa era uno squadrone dell'esercito regolare che, sotto i suoi ricchi baraccani, nascondeva fucili d'ordinanza. Nella confusione del panico, José Arcadio II riuscì a mettere in salvo Remedios la Bella e Aureliano II portò in braccio, in casa, la sovrana intrusa, col vestito stracciato e la cappa di ermellino inzaccherata di sangue. Si chiamava Fernanda del Carpio. 6 mesi dopo il massacro, quando guarirono i feriti e si appassirono gli ultimi fiori sulla fossa comune, Aureliano II andò a cercarla nella lontana città dove viveva con suo padre e la sposò a Macondo in una baldoria fragorosa che durò 20 giorni.